Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dai crolli che hanno interessato le infrastrutture autostradali italiane nell'ultimo biennio è che il sistema dei controlli non ha funzionato. E a meno che non intervenga qualche cambiamento, non è affatto detto che funzioni in futuro quale che sia il gestore dell'infrastruttura. Ed eccoci quindi a questa proposta che abbiamo lanciato ieri qui a Smart City, a cui dedichiamo anche la puntata di stasera. La proposta è la seguente. Primo, rendere obbligatoria l'installazione di sensori per il monitoraggio dinamico e in tempo reale delle principali opere viarie, quali ponti e viadotti. Le tecnologie esistono e sono numerose. Secondo, creare un repository, quindi un database, in cui far confluire sempre in tempo reale i dati di monitoraggio, in modo che siano consultabili non solo da chi l'infrastruttura la gestisce per pianificare la manutenzione, ma anche da chi l'infrastruttura l'ha data in concessione e quindi lo Stato per vigilare. E infine diciamo anche da parte della magistratura, perché in caso di un evento avverso, nonostante magari vi siano stati diversi campanelli d'allarme, nessuno possa più sostenere di essere stato colto alla sprovvista. Ne parliamo con Paolo Clemente, che è ingegnere strutturista, è un esperto di ponti e di tecnologie antisismiche ed è direttore di ricerca presso il Centro Enea della Casaccia. È stato più volte nostro ospite. Buonasera Clemente. Buonasera. Allora, la prima cosa che le chiedo, come ieri al suo collega, è se ci può dare un'idea approssimativa di quali siano i costi di monitoraggio. I costi di manutenzione, di monitoraggio, ovviamente dipendono dalle dimensioni di ciascuna opera. Un sistema di monitoraggio può costare mediamente intorno ai 100.000 euro, abbastanza completo, con diversi sensori distribuiti, come lei parlava prima appunto di monitoraggio dinamico, parliamo di quello. Sì. Quindi su un'opera di medie dimensioni, sono comunque cifre... Cosa si intende per opera di medie dimensioni? Sì, significa un viadotto di 4-5 campate, dai 50 ai 100 metri di luce ciascuna, e quindi con altrettante pile di una altezza che può variare da 10 ai 20, 30, 40 metri. Insomma, un'opera costosa comunque. Un'opera costosa, certamente, che quindi la cifra che dicevo prima si capisce che è ridicola rispetto al valore dell'opera, a quello che si rischia di perdere, perché il rischio, non lo dimentichiamo, certo, in tutti i campi è il valore economico che noi possiamo perdere in occasione di un evento disastroso, certo, sia questo un terremoto oppure un crollo semplicemente per vetustà o mancanza di manutenzione. E quindi comunque l'idea di pensare a un monitoraggio diffuso, obbligatorio, almeno a partire da per certe opere, quindi a partire da certi valori, mi sembra un'idea ottima. Ecco, oggi quanto è diffusa la pratica di inserire già sensori per il monitoraggio dinamico nelle infrastrutture importanti, nelle opere importanti? Ma se pensiamo a opere importanti, di grande valore, grande rilevanza, io direi quasi sempre, almeno per quelle che sono le opere a mia conoscenza in Italia, soprattutto poi nel mondo. Ricordo per esempio che la Protezione Civile ha monitorati 8 viadotti, anzi 7 viadotti, mi scusi, in tutta Italia, quasi sempre in zone a elevato rischio sismico, e quindi un numero estremamente limitato che andrebbe ovviamente moltiplicato adeguatamente. Ecco, quello su cui però mi piacerebbe mettere l'accento non è tanto il monitoraggio, che indubbiamente diciamo è utile, ma il fatto che i dati siano poi disponibili non solo a chi gestisce l'infrastruttura, ma in tempo reale anche, per capirsi, allo Stato. Lei pensa che questo possa fare la differenza in qualche modo? Ma sicuramente è importante ovviamente che i dati siano fruibili sia per controlli sia per motivi di studio e di ricerca scientifica. È chiaro che questo diventa anche un deterrente, se vogliamo, per chi deve progettare, costruire ed eseguire la manutenzione di tutte le opere d'arte in Italia. E anche forse di chi appunto deve svolgere le ispezioni e sa che comunque c'è una traccia oggettiva dello stato del ponte. Sì, vediamolo in senso positivo, è uno strumento strumento in più per verificare le opere e decidere in tempo utile di intervenire prima che il danneggiamento diventi molto forte, molto grande e quindi richieda costi di riparazione o di ripristino esorbitanti, a volte anche non convenienti. Bene, io ringrazio Paolo Clemente, do il benvenuto a Maurizio Caprino, giornalista del Sole 24 Ore, che da tempo si occupa della salute, delle strade, delle infrastrutture italiane. Ciao Maurizio, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, una norma, se ho ben capito, già prevede l'installazione di sistemi di monitoraggio in caso o di nuove opere viarie, perlomeno di una certa entità, o in caso di manutenzione straordinaria. Che cosa sta succedendo però, che tu tra l'altro hai più volte denunciato? Beh, sta succedendo che questa norma è inattuata, è una norma più ampia del rispetto ai sistemi di monitoraggio, l'addirittura voluta in fretta e furia, è stata messa col decreto Genova, quello dopo il crollo del ponte Morandi, ha costituito una super agenzia che doveva basarsi sulle risultanze di un super archivio che si chiama INOP e nel quale dovrebbero confluire anche le indicazioni dei sensori. Di tutto ciò, che doveva essere pronto entro il 30 aprile 2019, c'è ancora praticamente nulla. Perché secondo te c'è un motivo in particolare? Beh, perché non è una cosa ingestibile. Noi abbiamo un sistema assolutamente complesso, abbiamo troppe strade, troppi viadotti, troppe gallerie, troppo tutto, e per gestire questa mole abbiamo un ministero delle infrastrutture che ha problemi enormi. È anche il motivo per cui i gestori autostradali hanno fatto un po' quello che hanno voluto finora. Il ministero è stato anche lasciato, anche probabilmente in maniera scientifica, è stato lasciato senza appigli, senza poteri. Basti pensare che questa super agenzia, voluta appunto sull'onda emozionale di Genova, doveva avere in origine subito 61 persone, attualmente c'è solo il direttore. Grazie Maurizio Caprino, ci risentiremo, continueremo a raccontare quello che sta succedendo su questi temi. Vale la pena. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, allora sperando che questa proposta venga quantomeno ascoltata, ci lasciamo, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.